Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Eccola, si è accesa la lucetta rossa. 800 24 00 24, 800 24 00 24 è il numero per parlare con l'elefante, per parlare con l'elefante dello scandalo del giorno. La moglie di Berlusconi infuriata che dice ciarpame senza pudore, eccetera eccetera, il divertimento dell'imperatore, tutto fatto in nome del potere. Si riferisce alle voci che riguardavano, e che probabilmente avevano anche un fondo di verità, la formazione delle liste del PDL, le liste europee. In queste liste Berlusconi voleva immettere un certo numero, pare un numero molto elevato, di belle ragazze, di giovani ragazze con una loro esperienza, che non è un'esperienza convenzionalmente tipica dei curriculum dei candidati politici. Alcune di loro almeno avevano come base, come fondamento, diciamo, per una candidatura poco, però un poco significativo. Il lavoro nello spettacolo, la bella presenza, il fascino, una certa, sono attraenti, diciamo, ecco, attraenti e parte di un sistema, il sistema della comunicazione e dell'intrattenimento e dello spettacolo, veicolato soprattutto attraverso la televisione. È una cosa che esiste in tutto il mondo. Leggevo stamattina sull'Espresso che nell'ultima dittatura d'Europa, la Bielorussia, le ragazze che vogliono la libertà fanno la fila per fare le modelle. L'idea di farsi una carriera, di promuoversi anche attraverso la propria avvenenza, il proprio essere attraenti, è stata veicolata, è diventata un elemento, è diventata un lavoro, è diventata una carriera, è diventato un curriculum, è diventata qualcosa di socialmente rilevante. Berlusconi un po' fa parte di quel mondo. Lo diceva anche Biagi, se facesse l'annunciatrice si farebbe venire le tette. È un uomo che ha sempre lavorato sul particolare, che conosce i fondali rosa confetto delle trasmissioni televisive. Come dire, è un po' la sua fabbrica, la televisione, no? Quello che è stata la fabbrica per le classi dirigenti della Prima Repubblica che promuovevano il proletariato. È il suo ambiente di riferimento. La rivolta però della moglie del premier, di Veronica Berlusconi, diciamo, è un po' incomprensibile alla luce di quello che è poi successo. Le tre candidate del PDL sono il frutto di una selezione. Adesso naturalmente tutti i giornali dicono beh, grazie, siccome lei si è ribellata, allora poi hanno diminuito il numero delle candidate ragazze. Ma qui ci sono delle candidate che si chiamano Licia Ronzulli, Lara Comi, Barbara Matera, e che sono delle candidate perfette. Hanno tutte le carte in regola, ma non solo per, insomma, anche per ragioni, come dire, di rispettabilità, come dire, molto comuni, insomma, no? Quasi conformiste, direi. Le lauree, l'avere partecipato alla vita politica e di partito, l'avere fatto la gavetta, e naturalmente sono anche ragazze belle. Una, Barbara Matera per esempio, è stata selezionata nel concorso di Miss Puglia nel 2000, sono giovani. Ma d'altra parte questa idea di avere candidature giovani, candidature fresche, candidature nuove e candidature attraenti, candidature fondate anche su, insomma, su un buon possibile rapporto di consenso con gli elettori, è vecchia come il mondo, non l'ha inventata Berlusconi, e la praticano tutti. Se devono scegliere il giornalista televisivo o la giornalista televisiva, scelgono anche a sinistra quello carino e quella carina. Emanuele Filiberto c'ha un bel nome, Savoia, e è una partecipazione a uno show televisivo come Ballando sotto le stelle. Insomma, non è che lo hanno scelto perché è un condottiero come i suoi antenati. Il mondo moderno è fatto così. La gente che si mette in vista, che si fa vedere, in genere è più predisposta a entrare nelle liste. Io trovo che non ci sia un vero scandalo da trattare con enfasi moralistica. Naturalmente però ognuno ha il suo parere, e noi abbiamo qui riunito Ritanna Armeni, giornalista, buongiorno Ritanna, è qui in studio, abbiamo la nostra Lidia Ravera, scrittrice, scrive sull'Unità, l'ultimo suo libro è La guerra dei figli, appena uscito per i tipi della Garzanti, e Gianluca Nicoletti, che è il grande e noto ai nostri ascoltatori conduttore di Melog 2.0 e che scrive sulla Stampa. Bene, con loro tra poco, dopo la pubblicità, dopo l'apertura della borsa e Deborah Rosciani, discuteremo il grande scandalo delle candidature femminili e della rivolta della moglie di Berlusconi contro il famoso ormai ciarpame senza pudore per divertire l'imperatore. 800 24 00 24. Allora, è la rivolta di Veronica Berlusconi contro il marito, le sue frasi molto dure, la risposta del marito, anzi sentiamola subito, cosa ha detto Berlusconi in risposta alla moglie? C'è una manovra montata dalla stampa di sinistra e dall'opposizione sulle nostre liste, con notizie assolutamente infondate, che evidentemente sarà un boomerang come sempre per la sinistra quando verranno fuori le liste, perché noi non accettiamo di vederci imporre dalla sinistra quello che per loro è il metro d'azione nella nomina dei candidati alle europee, che molto spesso sono vecchi arnesi della politica, di cui liberano il campo in Italia per mandarli in pensione in Europa, e soltanto interessati al compenso, e molto spesso assenteisti. Le critiche più forti però è arrivata da sua. Anche la signora è stata ha creduto a quello che hanno messo in giro i giornali. Bene, bene, bene, bene. Vedo qui Renzi arruola una schedina, brutta cosa di qualificare, Elisa Sergi, sì, schedina nel senso di quelli che è il calcio. Va bene, anche il candidato a sindaco di Firenze pensa che insomma non c'è niente di male a mettere nella sua lista una ragazza che si è qualificata per la sua attività televisiva nel campo dello spettacolo. Lidia Ravera, lei è molto arrabbiata con Berlusconi e suggerisce a sua moglie di divorziare, perché? Tanto non sono affatto arrabbiata con Berlusconi, cioè lo sono, ma per motivi molto più seri. E poi non ho affatto suggerito a sua moglie di divorziare. Io mi sono, come la signora Berlusconi, basata su quello che ho letto sui giornali e ho commentato questa lista, ho preso la notizia da Repubblica, non me la sono inventata, non me la sono sognata, e mi è sembrato che comunque si fosse espressione di questa solita vecchia logica, insomma, che è un po' la Weltanschauung del Presidente del Consiglio, uomini di potere facoltosi e donne come oggetti effimeri, e quando i requisiti estetici richiesti appassiscono spesso vengono defenestrate, oggetti effimeri di corteggiamenti di tipo narcisistico, più te ne ronzano attorno più sei arrivato, donne come yacht, come ville, come Ferrari testa rossa, insomma una specie di donne status symbol, e anche in lista con questa funzione ornamentale, che poi abbiano 3 lauree, 7 lauree, che adesso venga fuori che hanno fatto politica fin dall'asilo. Io mi baso su quello che leggo, non le ho mai sentite nominare, sono delle ragazze che facevano fino a 2 minuti fa un altro mestiere. Allora, siccome io credo che il Parlamento europeo... No, scusi, Ravera, adesso dobbiamo parlare però sulla base anche un po' di fatti. Le ragazze effettivamente messe in lista non si può dire che sono così prive di qualità curricolari. Adesso per me questo non è neanche molto importante. E poi, scusi Ravera, ma le ministre promosse da Berlusconi, la Carfagna, la Prestigiacomo, la Gelmini, la Meloni, oppure le parlamentari, la Ravetto e le altre, sono notoriamente anche per riconoscimento, non so, del leader dell'opposizione, per esempio Franceschini, nell'intervista a Sabelli Fioretti ha parlato molto bene della Carfagna, ha detto è preparata, sa quello che dice, non capisco lo scandalo che si è fatto intorno a lei. Insomma, in realtà lui, per essere obiettivi, poi le leggende, quello che si legge sui giornali, e magari ma nelle leggende... quello che leggo sui giornali. Ma non è meglio basarsi su quello che succede nella realtà piuttosto che su quello che si legge sui giornali? Ah, se queste letterine, io cito da Repubblica, letterine, letteronze, veline, letteronze non so cosa siano, ma cito, veline, eccetera, se poi si riveleranno essere dei grandi statisti, io sono la prima a esserne lieta, non poniamo limiti alla provvidenza. No, ma per il grande statista cui... abbiamo Sassoli, Eugenio Emanuele Filiberto, abbiamo altri. Emanuele Filiberto mi sembra anche peggio delle veline, almeno quelle sono più allegre, divertenti. Dunque, vorrei sapere se anche Rita Armeni si basa su quello che legge sui giornali o riconosce che Berlusconi promuove delle ragazze e le fa lavorare come ministre e come parlamentari e loro non sfigurano. Beh, ahimè Giuliano, siccome noi non abbiamo la frequentazione di Berlusconi, no, dobbiamo... la frequentazione, beh, dobbiamo... basta vedere le cronache. Inevitabilmente, come dire, leggere i giornali e cercare di documentarci. E io devo dire che di questa vicenda della... posso essere un pochino seriosa, ma soltanto per un minuto. Come no? Di questa faccenda della signora Lario e di Berlusconi, devo dire che la vicenda personale mi interessa relativamente, mi incuriosisce perché il gossip poi alla fine incuriosisce, certo, tutti. Però mi interessa soprattutto per l'immagine, perché ripropone ancora una volta un'immagine del premier che a me personalmente non piace. E quello che la signora Berlusconi per la seconda volta ci fa vedere è un uomo, appunto lo diceva anche Lidia Ravera, in cui il potere e il sesso hanno questo rapporto così stretto, in cui c'è una famiglia sacra, come dire, che si coltiva, due famiglie in questo caso, e poi però si fa quello che si vuole fuori casa, in cui c'è questa morale maschile anni 50 in cui l'uomo appunto approfitta del suo potere. Questo è... Beh, la negli cosa... anni 50 non c'era il divorzio, lo avete voluto, non c'era, lo abbiamo voluto realizzato, purtroppo sì. La no, famiglia si è disgregata, dire... e lui c'ha due... Allora, famiglie, siccome gli anni no, 50. No, questa morale, diciamo che così, questa morale maschile, per cui appunto l'uomo in privato, l'uomo di potere in privato può fare tutto, in pubblico invece mostra una famiglia che dovrebbe... Tutto questo. Ma non questo è vero, non è così. Berlusconi sì, è il contrario. Allora, Berlusconi in pubblico racconta delle barzellette, spiritoso, perché fa il macio, esatto, perché il galante. Perché non c'ha la doppia morale. Voi avete la doppia morale. Berlusconi, voi ragazze progressiste. No, perché Berlusconi ha fatto un salto su tutto questo. Voi volete questo. Il divorzio, l'aborto, la pillola del giorno prima e quella del giorno dopo, le coppie di fatto, no, la cultura gay, e poi quando Berlusconi è un po' libertino, ah no, che vergogna! No, il discorso è un altro. Viva le critiche, viva la moneta. No, il discorso è un altro. Berlusconi ha fatto un salto proprio perché è molto potente, tutto questo lo ostenta. E invece la signora Lario tutto questo lo denuncia perché non gli piace. Siccome io mi ostino, e questa è la parte seriosa del corso, a pensare che il rapporto uomo-donna sia fondamentale per capire gli uomini e per capire le donne, certo, ma fondamentale per capire gli uomini, un uomo che ha questo rapporto con le donne, io ne do un giudizio che è politico, poi può fare... Un uomo che promuove delle giovani ragazze, no, ministro della pubblica istruzione, ministro della pari opportunità, ministro dell'ambiente... Ministro... Giuliano, questo lo fanno tutti, voglio dire. No, che lo fanno tutti. Ci sono quattro ministre con questo governo, ce n'erano sei, non mi risultano otto... giovani donne promosse dalla c'erano sinistra. C'erano sei, otto in donne Parlamento con l'altro governo. Ma non è questo il punto. Il punto in questo caso è, scusami, io con queste signore che secondo me vogliono fare politica, mi fa anche piacere che vogliono fare politica, perché evidentemente la politica interessa, figurati. Non è questo, però ammetterai che il modo in cui si sono presentate, il fatto che lui le abbia scelte in questo modo non è stato una cosa. Guardate, lui sarà macista, pensare, ma voi siete antifemministe. Antifemministe. No, io non sono antifemminista profondamente, perché tradizionaliste. No, siete. Ho premesso che il criterio delle veline purtroppo è un criterio che dilaga. Tu avevi detto giustamente. Ma perché Emanuele... veline? Dov'è velina una che, scusate, si è laureata sulla formazione primaria alla Cattolica di Milano? Giuliano, ha fatto politica in Forza velina, Italia con i suoi velina colleghi maschi. L'ha definita che... Berlusconi ieri dicendo farò. No. Farò quelle che voi chiamate veline. Quelle che detto, voi chiamate veline, allora veline. Che noi chiamiamo veline, lui ci farà i comizi, il che va benissimo, non sto dicendo niente, soltanto che io rimango molto impressionata da questa continua, come dire, ostentazione. Ma da che? Ostentazione di che? Beh, insomma, voglio dire, non è che ha scelto qualcun altro, ha scelto tre donne perché sono belle per il loro corpo. Ha scelto un sacco di candidati di tutti i tipi. Tra questi ha messo anche tre ragazze molto belle che hanno comunque una loro storia. E comunque la moglie, che evidentemente lo conosce. Una ha fatto il volontariato in Bangladesh. Dobbiamo, come si spiega l'arrabbiatura della signora Berlusconi, che secondo me è un'arrabbiatura personale ma anche politica. Vabbè, allora, di questo stiamo discutendo. Se l'è sognata. Vediamo se Gianluca Nicoletti si spiega l'arrabbiatura della signora Berlusconi in un altro modo, diverso dal mio e da quello di Rita Armeni e di Lidia Ravera. Io penso che condivida una linea comune che trovo abbastanza triste, che assomiglia a quell'atteggiamento di quelle gentildonne di qualche decennio fa che si occupavano delle povere sventurate, finanziavano questi ospizi dove mettevano le ragazze madri o le ragazze peccatrici, che esista una categoria di donne perdute già in partenza per il fatto che siano belle e siano frutti meravigliosi del mondo dello spettacolo, della televisione, dei media, di cui tutti viviamo, di cui tutti usufruiamo, usufruisce anche la signora Berlusconi quando fa una lettera pubblica a un giornale, quindi sa benissimo, questo darà visibilità comunque al suo pensiero. Quindi il sistema funziona per tutti e fa bene a tutti. Il pregiudizio su queste ragazze, se sceglie dei candidati giovani, devono essere belli per forza, perché oggi il 90% dei giovani sono belli, perché sono ben nutriti, sono curati, curano molto il loro aspetto. Il fatto che siano belle non significa che necessariamente non siano adatte a un ruolo che oggi mi sembra aperto con grande facilità a tutti. Non è che esistano vere scuole politiche o persone con delle vocazioni radicate politiche e che abbiano le stimmate del sacrificio sulla loro pelle, aver dedicato la loro vita all'impegno politico. Ma quando mai? Ma dove stanno queste cose? Se prendi qualcuno che anagraficamente stia sui 20 anni, naturalmente una persona bella, una persona che si è offerto alla televisione. Mai come in questo momento il mondo della politica e il mondo dello spettacolo sono stati contigui. No, ma io direi che si miscolano forse, Gianluca, cose di un genere e dell'altro. C'è sempre il rischio che la Ravera denuncia, che insomma, su cui l'Armeni si è fermata un attimo fa, c'è il rischio di essere volgari, di essere sciatti, di trattare le donne come oggetti, di pensare alla bellezza femminile come uno strumento e non come qualcosa di profondamente suggestivo, di importante, eccetera. C'è il rischio di rendere cosa la politica, di avvilirla, di renderla meno nobile. Questo rischio c'è evidentemente, figuriamoci se non lo corre un imprenditore della televisione che si improvvisa 15 anni fa statista, vince sempre le elezioni, acquisisce un grande potere e naturalmente si deve muovere dentro i confini della politica, dell'etica, in un mondo completamente nuovo dove appunto non ci sono le vecchie garanzie. Però detto questo, io veramente penso che la moglie di Berlusconi, Veronica Berlusconi, diciamo, naturalmente lasciando da parte, perché non mi interessano, non sono cose delle quali le persone civili discutono, gli aspetti privati, gli affetti privati, il comportamento di un marito, la sua funzione di moglie, di madre dei suoi figli, ma dal punto di vista pubblico la sua critica moralistica a questo chiacchiericcio che si è fatto intorno alla candidatura delle ragazze non è comprensibile, non è giustificabile. Proprio per una ragione concreta, perché la promozione delle giovani donne in politica fatta da Berlusconi, e vorrei che la Ravera mi desse ragione su questo, al di là di quello che dicono i giornali, è stata una cosa fatta bene, gli è venuta bene, tante cose gli sono venute male, io l'ho criticato tante volte Berlusconi, anche ferocemente. Sbaglia, gli ho presentato una lista contro, è strano, una volta è l'anarca etico, una volta è bacchettone, non si capisce, non lo si fa un sacco di errori anche nella conduzione della vita pubblica, ma questa l'ha proprio azzeccata, cioè ha dato una lezione alla sinistra, ma si sbrighino, voglio dire, promuovano delle giovani ragazze e dei giovani ragazzi e mettono dei candidati così anche un po' più interessanti dei parrucconi che spesso scelgono per ragioni di corrente interna, di partito. Lui ha un'apertura verso la società che funziona, è vero o no, Ravera? Ma io vorrei che lei avesse ragione, mi farebbe molto piacere. Io non lo credo, io vorrei che le donne, che la presenza femminile anche giovane, le donne non venissero discriminate in base al loro aspetto. O alla loro visibilità, perché il problema non è la bellezza, ha ragione chi dice che la maggior parte dei giovani sono belli e questo va benissimo, anzi ci fa piacere, ci rallegra. Il problema è che la selezione sul retropalco del gran varietà televisivo mi insospettisce, sono convinta che chi ha cominciato comunque una carriera nel mondo dello spettacolo non debba essere preso e trasportato di peso nel mondo della politica, a meno che la politica non sia veramente ormai così sputtanata. No, questo ha ragione. La può fare chiunque. Questo ha ragione ed è anche vero che c'è un pericolo di discriminazione delle persone, diciamo, che hanno poi un aspetto, magari però hanno una grande... Sì, questo è vero. Magari se uno ormai la fotogenia discrimina su tutto, questo persino nel mondo della cultura, della letteratura. Se sei giovane e carino hai comunque una chance in più. Allora, un po' mi preoccupa anche perché magari restano al palo delle persone straordinarie che non hanno questo meccanismo che le rende visibili e che quindi non potranno mai dare il loro contributo al nostro disgraziato paese, che tra l'altro non sta in una situazione allegrissima. Su questo rischio siamo d'accordo. 800 24 00 24, la rabbia della moglie di Berlusconi contro il Premier per la selezione delle candidate alle elezioni europee. la storia del ciarpame senza pudore del divertimento dell'imperatore. Margherita dalla provincia di Milano. Margherita, buongiorno. Buona giornata a voi tutti. La trasmissione di stamattina mi fa piuttosto arrabbiare, devo dire. Sì, bene, facciamo apposta noi. Sono gli interventi femminili che mi fanno arrabbiare, perché confermano una mia opinione ormai datata, che le peggiori nemiche delle donne siano proprio le donne. Non posso concepire che si possa... si parla di discriminare, ma in questa trasmissione chi ha discriminato il sesso femminile sono proprio le signore che sono intervenute, tutte. Hanno tutte fatto delle considerazioni che io trovo discriminanti. Non posso tollerare che si possa pensare, si possa dire, si possa dichiarare che una giovane donna che magari si è trovata anche a fare la velina, termine peraltro che mi infastidisce molto, un lavoro fatto onorevolmente, non possa essere una persona con delle idee, con intelligenza, capace di esprimerle correttamente anche nel mondo politico. Io ho quasi 72 anni, non posso concepire questo modo che mi sembra veramente molto datato e contrario a tutto quello che dovrebbe essere la nostra cultura. Per quello che riguarda poi la signora Veronica Lario, è stata zitta e discreta per molto tempo. Rimpiango quel tempo, perché quello che sta facendo oggi è della massima ineleganza. Quando una donna nutre nei confronti del marito un astio così evidente, effettivamente non è che io le consigli di divorziare, ma sarebbe più degno a questo punto che lei divorziasse, perché le sue considerazioni sono anche queste, lasciatemelo dire, triviali, e mi dispiace molto che questo succeda. Poi per quanto riguarda Berlusconi, insomma, negli Stati Uniti abbiamo presidenti che sono stati attori cinematografici, ancora oggi abbiamo avuto un grande presidente e abbiamo uomini in politica che sono stati attori e vanno avanti e fanno il loro lavoro onorevolmente. Le belle signore che noi abbiamo in politica, vedi la Prestigiacomo, vedi la Carfagna, si stanno comportando molto onorevolmente, più di tanti uomini politici. Allora, da dove vengono queste giornaliste che si esprimono in questo modo? Mi dispiace molto che... Va bene. L'attacco è molto duro, sia alla signora Berlusconi sia alle due, la parte privata, ovviamente, secondo me. Quali potranno rispondere alla signora? Certo. No, è ovvio. Dico, stavo introducendo la vostra risposta. Madonna, ma come siete delle pantere proprio. La parte privata, l'attacco alla signora Berlusconi, dire si deve divorziare, insomma, non lo so, secondo me lì bisogna essere attenti, perché il confine del privato non deve essere valicato. Chi lo sa chi ha ragione, tra moglie e marito non mettere il dito da questo punto di vista. Invece per la parte pubblica che riguarda la votazione delle candidature, le nostre Armeni e Ravera, che sono due giornaliste qualificate, signora Margherita, e una giornalista e una scrittrice qualificate, due persone molto serie che parlano con la loro testa e dicono delle cose sulle quali lei ed io non siamo d'accordo, questo lo si è capito. Prego, Ritani. No, io volevo soltanto dire alla signora che quello che io critico, avendo anche delle posizioni su alcune cose diverse da Lidia Ravera, non sono queste ragazze, io sto criticando il modello maschile che esprime Berlusconi nella scelta di queste ragazze, nel senso che non è che Berlusconi ha scelto tre ragazze che, come dire, giovani, e su questo Giuliano ha ragione, è vero che la sinistra sceglie dei parrucconi, non saprisi, ha scelto tre ragazze dello spettacolo, cosiddette veline, che rappresentano loro anche un modello femminile. Ce ne sono tanti di modelli femminili giovani, come dire, vivaci, interessanti in questa società. Ha scelto questo con un criterio molto, a mio parere, padronale. Questo io critico. Non sto criticando che alcune giovani donne vogliano fare politica, per carità, che la facciano tutte. Bene, ci tenevo a precisarlo. Ravera. Io ho un'altra idea del ricambio della classe politica. Penso più a la spinta di movimenti di massa, alla spinta di un movimento di un'alternativa politica, a punti di vista diversi. A me sembrano queste giovani assolutamente all'interno di una logica vecchissima, quindi sono perplessa. Appunto, non pongo limiti alla provvidenza, sarò sempre disposta a dire che mi sono sbagliata se si riveleranno diverse da quello che uno con i dati che ha in mano può immaginare. Ma comunque la lista, queste liste, sono dei grandi vassoi in cui nel centro-sinistra le segreterie di partito, A destra l'imperatore direttamente, su questo grande vassoio serve un pranzo già cucinato, un menù precostituito, e gli italiani si devono beccare quello. Cioè, io penso che bisognerebbe forse... Beh, per la verità nelle europee hanno anche la preferenza. Scusa? Per la verità nelle europee hanno anche lo strumento della preferenza, quindi diciamo... Sì, all'interno però della proposta che viene fatta. Ecco, allora quando le proposte sono così uniformi, perché potrebbe anche esserci una rappresentante del mondo dello spettacolo e poi magari una nata alla politica in un altro modo, quando le proposte sono così uniformi io penso che il sospetto è lecito. Per quanto riguarda il divorzio della signora Berlusconi, che come me ingenuamente legge i giornali, io penso che lei non divorzierà mai, perché credo che sia assolutamente strepitoso quando la tua lite coniugale, un po' il sogno di tutte noi, riempie le prime quattro pagine di tutti i più importanti quotidiani. Speriamo che mia moglie non sia in ascolto. Cioè, si esce, in genere è materia di un caffè con l'amica più intima in cui è bene che resti qui così. Ne parla tutta Italia per tre giorni. No, tutto il mondo, che tutta Italia. Ieri ho avuto una conversazione con la corrispondente del New York Times. Tutto il mondo, appunto, addirittura in mondovisione. Chiedo scusa, devo mandare subito una telefonata critica nei confronti delle posizioni che Gianluca Nicoletti ed io, direi che posso, se posso assimilare, se posso avere l'onore di assimilarmi, abbiamo sostenuto, perché altrimenti Margherita è stata durissima con le nostre opinioniste. Quindi Andrea da Forlì. Sì, buongiorno dottor Ferrara. Ecco. Io premetto che non conosco queste tre veline, chiamiamole così, perciò non voglio entrare proprio nel merito, ma la critica che volevo fare è questa. Prima lei ha detto che Berlusconi è stato bravo perché comunque ha inserito dei giovani. Io non credo che si debba valutare un bravo premier, un bravo leader politico su questo, perché allora se adesso Berlusconi mette 5 giovani e Franceschini ne mette 7, cos'è, meglio Franceschini di Berlusconi? Io credo che la cosa importante sia la qualità. Credo che questo sia il metodo di misura. Su questo siamo d'accordo, insomma la media delle liste si giudica sulla base della qualità, dell'esperienza, della capacità, della competenza. Adesso non è che sono valori che io considero tramontati, non so Nicoletti. Io dico che la data di scadenza è un coefficiente di qualità, quindi scegliere i giovani comunque e dare una qualità. La data di scadenza come coefficiente di qualità non ci avevo mai pensato. È un ragionamento di marketing commerciale, certo, ma di questo effettivamente stiamo parlando. Efficace. Alberto da Roma? Pronto? Sì. Buongiorno, dottor Ferrara. Vorrei fare un'osservazione ironica e provocatoria. Ho pensato che il presidente Berlusconi in questa circostanza abbia perso un'ottima opportunità per dimostrare una mentalità bipartisan, visto le simpatie politiche della signora Veronica, perché se avesse candidato la signora Dalio alle europee... Ah beh, questa è una cosa fantasiosa, non male, sì, è vero. È vero, ho capito cosa vuole dire Alberto. La Veronica è diventata mitica addirittura, direi, nell'opinione pubblica di centrosinistra. È curioso, ma la famiglia... È girata la voce in una precedente Veltroni occasione. Aveva detto Veltroni che... aveva detto lui, poi non so se fosse vero. E questo fa parte, secondo me, del negativo della politica. Sì, però sarebbe lo stesso meccanismo per cui Berlusconi mette le veline che Veltroni mette. Scusa Nicoletti, il fatto che esista un meccanismo non ci esime dal dire che è un meccanismo giusto o un giusto che ci piace, perché tu dai il fatto che è un meccanismo, spesso un meccanismo sbagliato, compreso quello di Veltroni di dire che la signora Lario, perché appare sui giornali... Scusa, da vuole anche mettere... Marianna Madia, adesso non voglio fare i nomi, non mi sembra che fosse stata eletta per le sue altissime qualità di statista, era anche stata spacciata per grande economista. Madia è una giovane bravissima, una giovane assolutamente conosco, molto brava, molto capace, eccetera. Come può darsi che lo siano anche queste qui? Non le conosciamo ancora, io non le conosco francamente. Voglio dire che il meccanismo è molto diffuso, è il meccanismo che fa sì che siamo noi tre a parlare a questo microfono e altri 100.000 che ci ascoltano avrebbero magari idea che loro potrebbero dire delle cose molto più intelligenti. Tiziana da Roma. Ecco, sentiamo. Sì, è caduta. Beh, questo è un complotto della sinistra, perché Tiziana da Roma mi era stata schedata come ok con Berlusca, perché se li ha scelti ha una motivazione valida, che è molto fideista naturalmente, sì, come opinione, ma assolutamente. Ma allora, Giuseppe da Firenze. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Lì a Firenze avete Matteo Renzi candidato a sindaco, adesso lei tocca votare Renzi perché lì il rinnovamento lo fa lui, ha candidato questa bella ragazza, Schedina, cioè quelli con il calcio, esperienza televisiva, che dice ma non vedo perché noi belle non dobbiamo essere candidate. Ma io l'appoggio in pieno, nel senso che non capisco come si faccia a valutare innanzitutto prima di provare, come mia figlia ha 5 anni, prima prova poi valuta. Quello che non capisco io è tutta questa polemica sulla moglie di Berlusconi, quando incentrerei sul discorso, ma è molto semplice senza neanche polemizzare tanto. Presentiamo persone nuove, giovani, non guardiamo il bello o il brutto, ma guardiamo che magari cominciamo a fare un po' di pulito verso quella classe politica che ci ha portato al livello in cui siamo ridotti oggi, e guardiamo da qui a tot anni quello che riusciamo a migliorare, se riusciamo a migliorarlo, e poi analizziamo. Perché io faccio il camionista e siamo in condizioni veramente tristi qua a Firenze, indipendentemente dal governo che ci ha portato avanti finora, governo provinciale logicamente mi rivolgo. Quindi dico, innoviamo, ben venga, io ho 36 anni, non aspetto altro, che poi ci venga Brigitte Nielsen o venga uno, scusi il termine, uno scatafascio di donna, non mi interessa, mi interessa il cambiamento, basta con le Moana Pozzi. Ha fatto due esempi che più o meno... Io sono sempre del parere, tra l'altro, perché sono alla vecchia maniera, che non bisogna mai neanche osare parlare della bellezza di una donna, se non nel senso positivo, encomiastico, giusto, che tutte le donne meritano, perché tutte le donne sono belle, perché poi questa è la verità delle cose, e tutte le donne rendono il mondo migliore, vario e diverso. Infatti Dio li ha fatti maschio e femmina. Sì, ho detto questo, mi permette? Che c'è? Mi fate dei segnacci della regia. Le strade in diretta, sì, okay. Sì, il segno del volante. Bene, vorrei cercare di fare un finale di trasmissione seriosissimo, perché naturalmente ogni volta che si parla di belle ragazze, di politica, nel senso di Berlusconi, che certo è un politico che non annoia, eccetera, finisce tutto un po' a frizzi, lazzi e triche ballacche. No, facciamo un finale serio. Io dico quello che penso, voi dite quello che pensate, però facendo uno sforzo per non realizzare la battuta ad effetto. Vediamo se ci riusciamo. Abbiamo poco tempo, ma potremo riuscirci. La mia tesi, ripeto, è la seguente. Berlusconi certamente fa troppo il gallo, cioè, dei fenomeni diciamo di erotomania senile un po' troppo pronunciati e spiccati, e secondo me la moglie fa bene, anche se lui poi lì trova una riserva di energie, di attivismo eccetera, e poi non, nella vita bisogna non essere troppo bacchettoni da questo punto di vista, però la moglie fa bene a metterlo in guardia e a monitorarlo con una certa severità. Detto questo, però, non c'entra niente con la storia delle belle ragazze in politica. Lì è proprio il genio del marketing, è l'innovatore, è l'industriale della televisione e dell'immagine che parla. Ha semplicemente l'idea di mantenere forte il distacco suo, delle sue liste, del suo partito, del suo entourage, del suo gruppo, dalla vecchia nomenclatura che è inuggia agli italiani, e quindi trova queste persone che sanno di autocostruzione, grande curriculum, ingresso in carriera, eccetera, sono anche belle, sono gradevoli, sono piacevoli, e diciamo le mette nelle liste con un criterio di rispettabilità, perché cerca di fare in modo che entrino nelle liste, e infatti lo si è visto, quelle che poi la Carfagna ha studiato al conservatorio, la Presti Giacomo ha fatto una lunghissima esperienza politica, infatti poi non viene in genere messa in queste liste neanche dagli avversari, la Gelmini è donna di tempra, si è sperimentata nel Comitato Lombardo di Forza Italia per alcuni anni, e così è avvenuto con le parlamentari e probabilmente avverrà con queste candidate, se poi verranno elette, ciò che spetta a decidere agli elettori. Quindi non c'è scandalo dal punto di vista pubblico, questa è la mia idea. Nicoletti, e poi le nostre ragazze che concludono. Io insisto sul fatto che consideriamo una sorta di emergenza antropologica, quasi oggetto di una mutazione di motivi che non ci toccano, l'emergenza di questa tipologia umana della bella ragazza che ha comunque dei passaggi in televisione. Io ritengo che comunque facciano parte di noi stessi, siano contaminate con la nostra esperienza familiare, personale. Quindi non ci trovo nulla di strano, di alieno comunque dalle persone che avrebbero diritto di occupare quei ruoli. Il fatto che l'abbia scelta Berlusconi in questo contingente fa parte di una geniale operazione di gestione del climax emotivo del paese. In questo momento ha dato a noi un argomento che ci ha anche risollevato dal periodo di mestizia in cui parlavamo tutti del terremoto, della disgrazia, della ricostruzione, è anche servito questo, capito? Che poi questo si concretizzi in effettive figure politiche che diano una ventata di novità, questo lo diranno semplicemente il tempi e i fatti, ma diciamo per quello che riguarda il passato è stato già dimostrato che in fondo osare in questo campo, andare contro le regole, è servito. Quello che mi dispiace vedere dietro questo una sottile vena di malcelato e livoroso moralismo, che alla fine l'unica cosa che si imputa a queste ragazze è di essersi date al mondo dello spettacolo, quando tutti noi, chiunque comunque ha un'attività pubblica o deve essere testimone di se stesso, sia politico, giornalista, sia imprenditore, deve comunque fare i conti col grande mondo dello spettacolo. Questi sono già i figli del mondo dello spettacolo e quindi probabilmente sono le persone che più hanno diritto a stare dentro la politica. Lidia Ravera. Ma io penso che la maggior parte dei giovani hanno a che vedere con i duri tempi del precariato e quindi forse sarebbe interessante estrarre qualcuno anche da lì, ma comunque questo è irrilevante. La sensazione che ho, insomma, sono stata illuminata da Giuliano Ferrara, come mi accade abbastanza spesso. No, che gentile. Che ho capito il senso del mio disagio di fronte a tutta questa vicenda gonfiata, esagerata. Infatti la domanda è: chissà da che cosa vuole distrarci Silvio Berlusconi facendoci giocare in questa mega nursery con questo con questi bottoncini. Io ho capito che in realtà il mio disagio nasce dal fatto che io non amo l'idea di essere governata da un genio del marketing, da uno che si occupa della, per citare Nicoletti, gestione del climax emotivo dei cittadini del paese che governa. Cioè, a me piacerebbe essere governata da un uomo politico, rappresentata da professionisti della politica, selezionati in base al merito e all'efficienza, da una trentina d'anni, diciamo, dalla fine dei movimenti di massa, la politica è ridiventata un mestiere specialistico. E va bene, prendiamone atto, allora perché non selezionare la classe dirigente in base al merito politico, alla conoscenza politica, eliminando gli stolti, gli assenteisti e i disonesti, che già sarebbe un bel repulisti, e all'interno di chi ha fatto quella scelta professionale, ma chiaramente non è una visione da genio del marketing. Perfetto, questo mi sembra che questa è una riduzione a serietà, diciamo, delle questioni di cui stiamo discutendo. Sì, saremo sicuramente seri. Io credo che tra genio del male che il genio del marketing, il genio del marketing che vuol buttare via la vecchia nomenclatura, che vuole dare un'immagine nuova, cioè tra l'uomo politico Berlusconi, così come l'hai delineato Giuliano, e il Berlusconi gallo, erotomane, un po' senile, che va dietro le donne, non ci si ha una certa connessione. E quindi, come dire, è l'uomo che si deve giudicare, e che questa vicenda della moglie e della denuncia della moglie rimette di nuovo in primo piano. Io continuo a dire che è quello che mi interessa, esattamente quello che tu hai descritto, questa figura, e che io come tale la giudico anche rispetto al fatto che mi governa. A me, un uomo gallo, erotomane, senile, col genio del marketing. Adesso non esageriamo. Erotomane, no, col genio, con l'erotomania senile, no, col prima, genio, no, del marketing. Prima di tutto l'erotomania è una, no, chiedo scusa Armeni, ma è un'attribuzione, una leggenda metropolitana. No, ma voglio dire una leggenda metropolitana. Cioè, quest'uomo qui, soldi, sesso e santità, della metà. Beh, ecco, che mi si presenta così, come mi si dice, benissimo, questo è che come giudichi tu quest'uomo? Berlusconi ama la vita. A me quest'uomo così non mi piace, ma non mi piace. Ma non ci credo. E come non ci credi? Non ci ti credo. Assicuro. Dalle non cose che scrivi non si vede. Ah, non si vede. No, non sembri una incarognita. No, ma non arcigna, sono incarognita. No, Giuliano, non sono né incarognita né arcigna. Sono una persona che, se questo è l'uomo, quest'uomo qui non mi piace. Non mi piace perché lo ritengo un modello francamente negativo. Dopodiché, voglio dire, nulla di male, ci sono tante opinioni, però così come tu l'hai descritta e come lo stiamo descrivendo, non mi piace. Siccome io, insisto su questa faccenda, ritengo il rapporto tra uomo e donna, il modo in cui un uomo si rapporta alle donne, fondamentale nella politica, proprio fondamentale, nella cosa, in questo momento è quello sulla quale moltissima parte della politica si gioca, darne vedere il rapporto che lui ha con le donne e mi spinge a rafforzare un giudizio negativo. Vabbè, non volevo essere così io voglio seriosa, molto, però... molto bene a Veronica Berlusconi, come potrete immaginare. Lei è anche componente del tour de table del mio quotidiano ormai da 13 anni e oggi gli ho scritto anche una lettera e lì poi c'è il fondo del mio pensiero. Dal punto di vista privato non entro, non posso entrare, non entro nel privato, quasi quasi non entro nemmeno nel privato del mio matrimonio, figuriamoci in quello degli altri. Però dal punto di vista pubblico, veramente qui c'è un equivoco, lo ripeto, il divertimento dell'imperatore, formula bellissima inventata da Veronica Berlusconi per censurare suo marito, a me sembra quello di vincere le elezioni e piacere agli italiani. Questo poi è il vero, è un produttivista Berlusconi, è un attivista politico mica male, ha deciso questo e per piacere farebbe qualunque cosa. Quindi la storia, diciamo, del rinnovamento delle sue liste, che dura da tempo, non è solo con le europee, del rinnovamento della compagine di governo e dell'inserimento nelle liste, nella compagine di governo, di giovani ragazze che hanno, come dire, un'energia e un talento in più oltre al normale background di competenza. Dopodiché, naturalmente, io capisco bene anche l'obiezione della Ravera, che dice: io voglio un professionista della politica, sobrio, vestito di una sua grisaglia, che si occupi dei problemi. Questo l'ha aggiunto lei. Della grisaglia. La grisaglia per me non è necessaria. Non è necessaria, va bene anche un tweet. Va bene anche un tweet, d'accordo. Va bene. Allora abbiamo, dopo una parentesi di serietà, ricondotto tutto al naturale sorriso che è necessario. Grazie a Gianluca Nicoletti, che tra l'altro tra poco riprenderà il microfono saldamente nelle sue mani per il suo Melog.2. Subito dopo il GR, grazie a Franca Fossati e a Gloria Guerrera, in regia Alessandro Chiappini e Peter Bescapè. Domani 1 maggio andrà in onda uno speciale di Gianfranco Fabi, il direttore della nostra radio, sul lavoro. Grazie e baci e ci vediamo lunedì prossimo.